adesso sei 9. Potrebbe vincere, mi può aiutare. Capito, quando sali, sali a 9.20. Iniziale se 9.20. 9, allora già sale. Allora già va bene. Hai fuzzata, se te l'ho detto anche prima che saliva, quando mi ha chiesto il controllo, io quando sto arrivando lì, là, sei 9.5, non clicchi positivo, sei 9.10. Buon segnale, ottimo, no, non c'è problema. La radio è rimasta invariata, quindi già va bene, va. Già va bene, pensavo che non andasse. Mi chiamano mentre l'armadio sta cosa. Vedete, c'hai Chihuahua. Buonasera a todos, buonasera. Qua Radio Chihuahua da Porto Torres, buonasera. Beh, Chihuahua da Sassari, quanto ti arriva adesso? 9, ci arrivo, lo passo 9. Mi dispiace di lui, ma sei a 8.30 a 8 fisso. Poi vabbè, ma avevo modulati, sali a 9, però sono 8 fisso. 8 fisso. Ecco, registrato un attimo, stanno parlando. Quanto il becco? Avevo guardato una bella, avevo un segnalone di quelli di da fare un video a tutti, ma se ne hai cavata, l'hai venuta. Sì, ma tu rispondi a me, non ti preoccupare, ce ne devo fare io. Adesso ti arrivo, quanto ti arrivo? No, adesso sei a 3. No, cosa hai fatto? Quindi da 3 vado a quasi 9, così è. Non ti basta? Caspita, da 3 si è passato a 8, ma 2 a 9. E quindi non ti battono, va bene? Sì, è a voglia che va bene, ma tu mi hai chiesto un controllo e io te l'ho dato. Benissimo, benissimo, ok. Avanti, becco, se c'è stato, buonasera. Più piccolino sono io. Ciao Claudio, ciao Gianfranco, ciao Natalino e l'amico mio di Porto Torres. Chi tocca avanti? Ma da te segnale a 40, ci arrivo adesso. Prima era 30, adesso quanto è? Guarda, io qua ti sto ascoltando, quando mi hai detto al minimo arrivi 9.20, meno di no, poco meno di 9.20, al massimo 9.35, non capisco cosa hai combinato tu. Ma tu mi avevi sempre 9.30, quindi non arrivo neanche a 9.40. Allora lo metto dentro l'armadio. Allora superi 9.30, sei quasi 9.35 fisso, però poco fa quando ho detto al minimo sono così, al minimo sei quasi 9.20, mai visto di sempre quasi 9.30 quel segnale normale. Ho capito, ma sto pilotando l'amplificatore HF con 5 watt, quindi quando stacco c'ho 5 watt, capito? 5 watt, perché lo sto facendo andare piano piano. Oggi con 5 watt, domani con 10, poi con 20, poi con 30, quando vedo 50 watt poi mi dai la risposta. Purtroppo queste valvole bisogna trattarle bene, che costano 250 euro l'una. Ma quei tipi di amplificatori conviene farli non tanto piano, a dargli tensione più bassa con il variac, vabbè io ce l'ho un variac che te la dà piano piano, per anziché dare nelle 220 ne dai prima 100, poi 150 e poi 220 a salire piano piano in modo che si stabilissino. Ok, c'è stato qualcuno sotto la rotta alla radio che vuole entrare. Chi sei? Ma sei Santiago 9, ma la radio non si capisce cosa sta dicendo. No, qua non arriva per niente, tutta fischie. Ma chi è? Ma non è Franco, sembra Franco la voce, o se mi è sembrato di sentire Franco, confermi, tu sei Franco. Guarda, sei tutto fischiato, il segnale è forte, 9, però non capisco quello che hai detto. Ma qua non arriva neanche. Avanti di nuovo chi ha chiamato. Tu sembra fuori frequenza. Gianfranco, tu lo ascolti. Eppure è forte, 9. Il segnale è forte. Aspetta un attimino. Quanto gliene stavo dando quel giocattolo qua? Le sto dando 5 watt d'ingresso e l'uscita siamo intorno ai 250. 250. Allora, già va bene, se 9 più 35 è riportante, cosa vuoi di più? Magari con il coso, senza questo, i picchi sono più alti, utilizzando normale con potenza dell'apparato diretto, magari gli 80 watt dell'apparato, e i picchi sono più evidenti, però qua l'importante sei quasi 9,35, non è poco, no? Era già fatto farlo da nota 9 più 20, quindi già funziona. Da me arriva da 3 a 8, ma già funziona. Io quando ti arrivo, Eugenio? È lo stesso segnale, 8 modulati a 9, sono perfetti. È lo stesso segnale, Claudio. Però tu mi arrivi a 9 più 10, Eugenio. Lo so, ma tu guarda, mi arrivi a 8 fissi, poi con i moduli 9, 9 qualcosa, dai. Capito? Ora Claudio. Ma la radio com'è, Eugenio? Sempre la mia, sempre la stessa radio. Non cambia, no? Sì, sempre quella radio ignorante, quella prepotente. Si sente che sei Porto Torres. Lo so, sono nato sia di mio io via Cavour, per quello è. No, ma l'importante è questi amplificatori che non dai più di quella potenza, perché altrimenti può creare problemi, soprattutto quando sono così da tanto fermi, capito? Tutto qua. Va bene, avanti Gianfranco, riprende e fai girare anche per Mattarino. Sì, riprendo un attimino, però sono impegnato che sto finendo una proclamazione che è mezzo saltata sui punti. Poi tra poco magari, se sei disponibile anche Roberto, facciamo qualche prova di transit. Sì, così provo anche il microfono l'altro. Sì, ok. Un attimino, che mi sentiamo questo è... Guarda, tra poco prendo quella mazza che ho per la legna e la spacco in quattro l'apparecchio. Mai vista una porcheria del genere, guarda. Che avanti col bip, che avanti. Vabbè, vai la cadete. Scappa. Robè, dimmi quanto ti arrivo che devo fare una cosa, per cortesia. Prima di Natalino, bello forte. E cosa hai fatto? Natali, tu sei 9,25 e c'hai dei picchi positivi. Aspetta un attimo. Guarda adesso come ti arrivo. Da 9,25 arrivi 9 più 30 con i modulati. Capa, lasciamo così. Ciao LG! Finalmente, un bel segnale. Arrivi da 6 modulati a 7 qua, bellissimo, finalmente. Ma è una antenna, già ti arrivo bene poi. E sì. Peggio stazionari, che è meglio andare piano. No, ma non hai piazzato l'antenna? No, ne ho piazzata l'antenna ancora, no, sto aspettando che faccia tempo buono per poterla, poi sto aspettando un'altra antenna e mi arriverà domani o dopo, così piazzo il tutto appena fa bel tempo, dai. Ah, ho capito, va bene. Comunque va bene, perché il segnale è buono, dai. Capa, almeno ti sento meglio con l'altra antenna, poi la metterò anche più in alto. Speriamo di sentirci meglio là, perché ti sento basso di radio. Basso di radio? Ah, stanno bene Roberto, Claudio, stanno bene, sì. 9 più 10, radio 5 da parte mia. Ma la colpa è mia, EOG, c'ho l'antenna bassa, c'ho stazionario, è piena d'acqua questa antenna, dai. Ma prima di getto c'hai tu attaccato? Non c'ho niente attaccato, cos'ha? Sto uscendo basso, non ho nulla attaccato, no. E come mai sali così tanto di segnale tu? Potrei anche salire di più, ma non mi fido che c'ho stazionari. Quando piazzo l'antenna nuova posso salire. Scappa. Ma già lui, va a piazzare l'antenna a lì. Sto aspettando la X30 che mi arrivi, così piazzo tutto su, almeno sento anche quello che devo sentire. Ho capito. Già va bene. Ok. Avanti, Chihuahua. Adesso sono liscio normale. Vai. Va bene. Ma sali bene con il camper? Cosa, oggi? L'altro giorno stavo uscendo bene al camper, aspetta il lavoro che devo fare. volevo fare un lavoro, un amico mi ha fatto una piazza di lusso, faccio un lavoretto alla grande. Lo sento male io a Eugenio, mamma mia, basso basso lo sento di segnale, ma arriva a 9, però il segnale è basso. Cioè ti arriva a 9 e il segnale è basso, cosa vuol dire? Cioè la radio è bassa, sì, è incomprensibile perché io ho QRM qua. Ah, ho capito, la sicurezza è il problema, non è mio. Ah, il Chihuahua, cosa fai di bello di sabato ancora in casa? Cioè, lasciamo un attimo il bianco, forse c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, chi vuole entrare? Sembra il segnale di quello di Alghero, di Cristian, no, Cristian si chiama, Mirko. Però boh, non capisco quello che dice, il segnale è forte, è 9. Aspetta che l'ho sentito io. Buonasera, chi sei? Vieni avanti. Ah, è Mario, è Mario di Polo Torres. È Mario di Bologna, trapiantata da Polo Torres. Ciao Mario, buonasera. Come va? Tutto a posto? Però gli amici di Sassari non ti sentono, Guardi, va benissimo, Santiago 5. Ah, ok, quindi Claudio ti sente, è solo Roberto che non lo sente. No, io già lo sento, ma si porta presso il QRM, il segnale è quasi 9, più di 8 sta arrivando qua, però si porta tutto questo disturbo appresso, qualche parola non riesco a capirlo. No, vabbè, ma sono a casa, sono a casa. Non sono in camper, l'altro giorno non avevo il camper, adesso sono a casa, e per quello sicuramente magari siamo anche vicini. E riprendi Roberto? Quanto ti sta arrivando a te Mario, da Porto Torres? A 5. Certo, mi arriva più forte a me e tu con Santiago 5 riesci a tirarlo meglio di me, che è strano. Lui si porta presso questo cazzo di fruscio. Qua è 5 pulito, Roberto, non ne ha di fruscio. Ma io lo sento pulitissimo. Io ho QRM 8 e lui supera il QRM di poco e ho questo fruscio sotto. No, Mario, non ti lo fai, intanto ti sentono, Ci sentiamo tutti, non è un problema. Ce l'ho fisso a 8 oggi QRM, altissimo, proprio, ci deve essere qualche agente esterno che mi sta disturbando, 8 fisso. Proviamo ad andare in FM un secondino. No, vai, proviamo. Qualcuno, avanti Mario di nuovo. Mario, ci sei? Mi senti? Roberto, come sta andando il mio in FM? Perfetto, meglio la FM in buro. Io lo sento bene Eugenio adesso. Cesh, che bello, tu di fondo scala siete. Come mai? In FM pompa di più? E sono basso di segnale pure, di volte io. Io ti ascolto benissimo adesso. Avete un esempio in FM, Eugenio. Però c'è un'antenna bassa, quando metto l'antenna nuova già ti sento bene anche in AM. Ehi, va bene, non c'è problema. Chi è che ha detto che arriviamo tutti a fondo scala? Io, sto andando con neanche due ratte. Ma anche io ti sento meglio. Ma forse l'FM è più libera. Roberto. Ma che è Mario? No, Mario ci sei? Allora, in FM io ti ascolto male, Mario. In FM con quel portatile ti ascolto malissimo. Ma Eugenio. Ma che è Tino che sta parlando? Ehi, Roberto. Ciao Tino, ben sentito. Ciao, buonasera a tutti. Sto andando con due ratte, credo. È da portatore quando arrivo così. A due. Segnale di due. Tino. A due. A due. Aspetta un attimino, aspetta. E adesso? A due. Mi ammatto sì. Di Santiago Ronfe? No, non è lineare. Sono il voto della radio. Mi sei facendo di lo Smitter, Tino, ti faccio pagare lo Smitter. Boh. Allora, questa radio, non so se voi la conoscete, la 454, la deve lavorare in FM, se no è differente dalla M, non come le altre, il 140, il 440, il 430, che se hai 25 watt per dire in AM, in FM è il doppio. Ah, ecco perché forse mi stai dando più assorbimento nell'alimentatore, forse sta dando più watt questo baracchino, questa radio. Ebbene, FM rende di più. E adesso quanto sono oggi da te? Sempre 9. Andare, esce, non sto aumentando tutto tanto, credo, guarda un pochino. Poi, come hai toccato qualcosa, sei sceso a fondo scala a 9 più 20 e poi sei ritornato a 9. Vabbè, Chihuahua. E oggi io quanto arrivo? Io a te. Modula Cla. Chihuahua. Ciao Tino, buonasera a tutti comunque. In AM esci più forte, di radio. In AM è più forte la radio? Non so, questo microfono si può regolare. Questo è così, non si può regolare, è uguale al tuo. Sì, però in AM ti sento, in AM è proprio la radio esplode, si sente che qua ti sento basso, molto ma molto più basso della M. Così, muscolo, più bassa la modulazione in FM. Ehi, Cla, tieni presente che è differente dalla la M rende di più. Vabbè, ma non è bassa la radio, uno è bassa, uno è avere meno potenza di radio, normale in FM. Ok, la mia modulazione è normale alla M. Boh, è più bassa. Più bassa, più meno acuti c'hai, però è buona lo stesso, sarà come questa. È buona la radio, dai, di tutte e due. Eugenio, quanto ti arrivo lì adesso? Adesso sei a 5. Cappa. E sono basso basso. Se aumento il VAT, sei che non ribusso, sai che faccio l'antenna con le stazionarie alte. Pino, ehi, Cla, vai in AM sul canale 20 un attimo, devo fare una prova. Ah, vabbè, scusate un attimino. Io quanto sto arrivando in FM? 9,20. FM è questo tiro a piena potenza. Invece io devo salire i watt se voglio arrivare più forte. Mario, stavo dicendo, avete sentito Mario? Roberto? Sì che lo sento, ma è tutto, si porta appresso questo fruscio, lui il segnale adesso è a 9,20, figurati, poco fa era 9, però si tira appresso questo QRM, è strano, ma c'è la telefono oggi? Con antennino di macchina. Per quello, naturalmente io sono negativo verso di lui, ci sta portando tutto QRM, ripeto, il segnale è forte, era 9 in AM, quasi 9, però in FM è 9,20, ma si tira dietro tutto questo... Non si capisce quasi niente quello che dici. No, ma lui ha un antennino in macchina, capito? Un antennino che a me piace tantissimo e niente. Per il camper potrebbe andare bene. Vabbè, comunque è un antennino. Per l'antennino che ha sta andando bene. Torniamo in AM, sa che entri qualcuno, c'era Gianfranco, sa che poi non ci sei. Sì, torniamo in AM, dai. Eccoci qua. Comunque c'è qualche interista, sta vicino a 0 l'Inter. Siamo di nuovo in AM, dai. È cambiata qualcosa la modulazione? No, io ti ascolto bene in tutti e due i modi, perfetto in tutti e due. Natalina è una bomba, in FM mi fondo scala, mi ha spaccato lo Smith, non so quanti kilowatt li stava dando. No, a 0 sono di potenza. Sono a 0. Però in FM magari le dai da più vasti in FM, capito? Sì, il nostro va più sicuro, il mio ne dà 3 volte tanto, io perché li tengo basso in AM. Quando metti in FM dà la piena potenza dell'apparato. Il mio no invece, Robè, devo aumentarli io i watt se voglio uscire più forte. Io non ti ho mai sentito così forte, tra parentesi, Natalia. Sono fatti per la banda laterale, questi per andare in FM. Sono fatti apposta. Aspetta che c'è qualcuno volentieri avanti. No, è stato sbagliato il microfono, tutto lì. Vabbè, andiamo a lavorare. Ehi, su che frequenza? Un attimino sull'uno, dai, che sennò qua disturbiamo. Dai, andiamo sull'1, scusatemi un attimo, andiamo sull'1. Va bene. Natalie. Proviamo un po'. Ok, hola, hola, hola. Mario, Mario, Mario. Non capivo perché stai usando il portatile e non quello che hai riparato. Dipende sempre dall'assorbimento. Ma diciamo che comunque te la buttiamo, ma non è nuovissimo la batteria. No, ho capito, però per farla durare la devi anche far lavorare la batteria. la devi far lavorare, la devi usare un po' più la macchina, perché se la lasci così la macchina in sé ha anche un po' di assorbimento da sola, poi se più ci aggiungi roba come il barattino che ha un certo assorbimento te la butta giù per forza. Beh, certo, poi ti lascia a piedi, secondo me sei un problema. Scusa un attimo, arrivo subito. Sono qua. Ma guarda, io ti ascoltavo male. Sinceramente ti ascoltavo male. Ah, l'hai messo in vendita? Non ho capito. Vedi un po'. Ma ti hanno già contattato? Beh, certo. Comunque ti hanno già contattato. Ce ne sono tanti. Comunque va bene, vai. Se ti ha già contattato. Bene, siamo qua, Ehi, va bene. Buon rientro a casa, Mario, vai, ci sentiamo. Cerca di risolvere il problema a casa e così la macchina non ti lascia più a piedi e riprendi a casa, tranquillamente. Una figata a casa, abitare nello stesso palazzo di un altro che ha il CB. Bene, ho capito che è Mario, non so, non lo ascolto basso, dai, credo che stia chiudendo. Salutone comunque, Mario. Io sei Santiago 5 qua, dai. Riesco a ascoltarti con le orecchie attaccate alla colonia, ma riesco a toglierti fuori. Comunque, buon rientro. Natale. Oh, io dimmi. Sì. FM, quanti watt stavi usando? E quello della radio? Stavo usando 10 watt. Ho capito. Oggi io invece quanto ti arrivavo in FM? Sì, non lo ricordo, mi sono andato che sceglieva la frase. Ah no, prima toccavi, cioè prima eri a 9, poi non so cosa toccavi e scendevi proprio a fondo scala. Ma me lo facevi oscillare, non so cosa stessi toccando. Ma possiamo rifare quella prova? Se mi dai 15 euro sì. No, 17 euro, non di più, quindi mi rimane poco a me. Vabbè, 17 euro va bene, vai FM. No, stai uscendo male, stai uscendo malissimo. Quando ero alto, Sì. Sei fondo scala tu qua. Lo so. No, non c'è paragone, ho voglia. Natalia, abbassa, abbassa che stai disturbando anche a me. Che cosa abbasso? So che a zero. Stai disturbando anche a me. Mi stai spegnendo il televisore. Addirittura qua Eugenio arriva a 9.15 quasi e non è che tu li passi Natalia. Ehi, già lo so. Arriva a 9 qualcosa qua Eugenio, però in AM lo sento basso, ma la colpa è mia, c'ho l'antenna bassa mia, va giù QRM. Adesso devo piazzare la grimassa e la piazzerò più in alto e più silenziosa e lo sentirò meglio. Ma anche tu l'antenna dei gay ti hai preso? No, l'antenna dei puffi. Ma l'antenna dei gay? Puffi nucci. Quella che ho io, la Gay Master. Con tante che ce ne sono belle. Natali, ma a te ti serviva una... aspetta, una Grand Prix per caso? No, negativo. Ah, niente, no, ho capito male. No, ce l'ho qua, la Gay Master mi ha ordinato, perché questa mi si riempie d'acqua e c'ho stazionarie, sì. Questa è l'Energy, tipo la BA27L, mi è uguale. Non ricordo, avevo sentito io sicuramente, che stavo cercando una Grand Prix. No, io sto usando l'omologato. Adesso voglio attaccare il Lincoln, se riesco a trovare il microfono, perché ho il connettore, il Lincoln lo sai, come lo conosci meglio di me. Non ricordo che il microfono proprio attaccato, se ho il più 4, il più 5, boh, non me la metto più. Se ho l'altro il più 5, da questi del fuori ho voluto andare a prenderlo. A vedere se funziona ancora. Io ho un po' di radio da sistemare, diciamo, lo staccate, poi il pui riattacco e quel pui che rimane definitivo invece non l'ho mai attaccato. Io voglio dare a qualcuno a prestare il coso, il Galaxy Saturn, ecco, a farlo funzionare un po'. Ce l'ho sempre qua spento, nell'armadio. Scusa, attaccatelo tu ogni tanto così, così. No, mi piace usare questo a me. Vabbè, ormai ti sei abituato a quello, io invece l'avrei attaccato lo stesso. Io lo stesso sto utilizzando questo, però non ho anche l'Inter che è HR5005, che è una radio che per me va, è come il Bluetooth, diciamo. Devo capitare a Sassari, devo dare anche il coso, il Galaxy Uranus. Beh, un attimino che mi devo spostare la radio, ce le prendo subito. Avanti. Ciao Eugenio, come va? Saluto anche tutti gli altri frequenti. Alfa 21, ciao. Buonasera, e allora? Tutto bene, che si dice da quelle parti? Finita un po' di bufera? Qua c'è ancora molto vento, molto vento. Stasera molto probabilmente le navi non partono. Capito? Da maltempo. Questo fine settimana mi sa che ha rovinato per tutti, lo so, oggi ero libero, oggi e domani ero libero, e purtroppo siamo qui in casa, vabbè. Poco fa ti ho ascoltato in FM, UG, 960. 960, addirittura, ricordami da dove stai andando, La parte alta del monte. Vabbè, allora, la parte alta del monte vuol dire che tu lì in ricezione ne hai. Sì, siamo in linea d'aria, siamo proprio a vista quasi. Allora già va bene, già andrà bene. Vabbè, anche perché in FM sparano di più gli apparati. Sì, me ne sono accorto che arrivavi proprio, la differenza si nota, è molto forte, adesso stai arrivando 9 di Santiago. Va bene, l'importante è sentirci, dai, va benissimo. Di radio sto uscendo bene, UG. Guarda, fai un passaggio che ogni tanto tendi a graccicare, mi sa tanto. Ma forse, sto microfono un po' così. Controlla ora adesso se senti meglio? No, tendi a, diciamo, a distorcere, dai. Ok, ho capito. Guarda un pochettino, magari così va meglio? Ecco, forse se lo stacchi un po' più dalla bocca va meglio, sì. No, la distanza è sempre quella, lo stavo regolando un pochettino. Oh, lascialo così. Ah, lascialo così che è perfetto. Va bene, ti ringrazio. Anche Natalino stava arrivando a bomba. Beh, però lo farò comunque un po'. Lo fa lo stesso. Tende a graccicare, diciamo. Come sollevi un po' la voce, il tono della voce. Allora abbasso un pochettino, magari va meglio. Beh, come abbasso il tono della voce va meglio. Cioè va meglio, va bene. Ok, dai. Qualche regolazione magari più va fatta. Va bene, dai, tu arrivi sempre bene, sempre forte. Andà bene. Natali. Cos'è passato? La potenza? Chica, io. Occhio. Ho detto, ci hai abbassato la potenza. Ma con chi ce l'hai? Con te. Non ho toccato niente. Assolutamente. Ma voglio dire, controlla se c'è qualche problema. Che non ho toccato niente, sto lavorando tranquillamente, non ho toccato niente. E sei sceso a Santiago 5? Non lo so, anche il tuo il segnale è basso, non lo so. Eccomi, sono arrivato. No, vabbè, il mio è basso perché sto andando con 4 watt, non è un problema quello, posso aumentare fino a 1 kilowatt. Calato E di 8 e 6,5. Ma non lo so, no, io non ho toccato assolutamente niente, io non tocco, non faccio. L'apparato come me l'hai fatto regolare tu, non ho toccato niente. Sono andato solo in FM e basta. E adesso sono in M. Allora non c'è l'epidemia. In FM è abbassato la potenza. Non ho toccato niente, zero, niente. Ho schiacciato il tasto MFM. Stop, non ho toccato niente. È strano, non so. Arrivi molto più basso che c'è visto. Non lo so, sì, no. Io sono qua, sono arrivato. Non ho capito, da te come sto arrivando, più basso o uguale? No, sempre uguale, per il momento. Ok, facciamo una prova un attimino in FM con questo. Volevo una cosa. Ehi, dimmi tutto. Vai un attimino in FM. Andiamo in FM. Eh sì? Guarda un attimino adesso, vedere se ti ho mandato qualcosa. Guarda un po'. Sera. Siamo in FM, guarda se è cambiato, le tre. Buona, no, la radio, si è cambiato la radio. Right. Allora, scusate un attimino. Ora, non lo so se sta andando bene. Sì, sta andando bene. 9:20, radio 5. No, la radio non lo so, qua se la mia questa, perché c'avevo più basso il mic poc'anzi. Adesso provo a regolare l'entrata della. Vediamo un attimino. Abbassiamo un pochino, perché sennò. Ora. Sono qua io, non c'è problema. Ciao Franco, buonasera, mi ascoltate. Ciao Claudio, buonasera. Alla grande, sì, va benissimo. Scusate, Nino, Claudio, ho chiamato poc'anzi, aspetta. La cosa che ti provare? Che devi sempre. Dai, prova Claudio, prova a vedere, tanto già mi clippi lo stesso, anche se sto utilizzando questo. Che si è attaccato, lascia perdere, da lì domina il mondo, tu non hai Franco, lei al nord del mare, non c'è un problema. No, stavo parlando con Walter in Vortex, poi mi si è attaccato il connettore, allora lo stavo mettendo a posto, ho capito tutto qua. KK, Franco, com'è il segnale mio lì? Tu sei 7, radio 5. Allora bisogna, cioè Santiago 7 così, è un po' come dai 8, con picchi positivi a 8,5, così sono con 200-250 watt, Santiago 7, cioè specialmente la bacia tua geniale, come te? Sì, 7 modulati a 7,5, dai, modulati. A portante fissa sei 7. Portante fissa non è 8, modulati a 9, alla grande. Quindi così non mi senti, allora, così proprio non mi senti niente. Sei sceso a 4, sei sceso, sì che ti sento lo stesso. No, quindi da 4 a 7 già funziona. 4, 7, così. Vabbè, siamo proprio negativi del tutto io e tu. Vabbè. Quindi questo è il trattamento che lo diceva, almeno. La radio arriva sempre forte, come quando eri all'appartamento. Brizzella. E a Luca gli arrivo sul 3 adesso, ma gli arrivo più sul più. Così a Luca. Cazzo c'è di facendo a Mourinho, cazzo. Io lei sta bene, subito l'immenda, quanto mi è antipatico. Pensavo di venire a Roma a vincere il campionato, vai! Vivono i miliani zinco, la giusta. All'inizio stavano attaccando loro, ma dopo, ora stavo guardando su dal Zonda, sono riuscito ad averlo, e di Brigi. Sta attaccando di brutto l'Inter, attaccando di brutto. Alla grande, poi il primo tempo 3-0 e non li bigliate in cosemi. Se continua lui sì. Ah ma io non ce l'abbiamo nessuno, ma era Lukaku che faceva la squadra. La squadra c'è, è fortissima, l'Inter dice campionato di nuovo. Ho detto Luca, ma il più lo supero al 3, ci arrivo o no? Sì, davanti al 3. Avevi il più, davanti al 3. Aspetta, allora già va bene, allora già funziona. È l'antenna di Franco che non funziona. Proprio con Franco sono negativo, che strano. Anche la Sassa è la stessa cosa. Vabbè. Avanti Tino, fai girare, vai. Sì, anche qua, nella, vabbè, conoscerai la Terra 5005 che è con la scala a LED, 6,9,15, quindi diciamo che siamo lì per lì stabili con quell'altro. Sì, ma ho fatto le prove anche con Coglio, con Gianfranco, ha fermato da 9,9,20, quindi l'amplificatore sta andando, tenendo conto quello che ti ho detto, perché questo è un amplificatore FF. Quindi lo sto dando piano, adesso ad esempio da 5 sono passato a 10 watt, quindi siamo 100 mai 300, però questo riceve 100 watt pieni, quindi con 100 watt tira fuori 1 kW pieno in M, però no, non mi fido ancora, piano, eravamo dentro l'armadio, e va bene. Bene, no vabbè, questo se lo lasci in stand by che... benissimo, le valvole si raffreddano e scende da 500, quasi 550, adesso è sceso a 250. No, è che ma la gente già non scende a questo ghiacciare, però devi darle piano piano. Quando lo usavo lo tenevo sempre a 50 watt, ma erava sempre 550, 600. Va bene, però manda laterale questo viaggio, poi così non va bene, sono apparecchiature per HF queste. Avanti, Chihuahua. Bene, ce l'ho preciso Luca, ce l'ho preciso io, però è preciso identico. Oh la la, oh la la, sono sempre a Ciria, la la la la la la. Oh yeah, oh yeah. Sì, domenica eravamo insieme a Luca, oggi, Luca Fanale. Ah, oh yeah. È venuto al campo, avevo il cane, ve l'ho fatto vedere, il Rottweiler che aveva. Legalo, tiro un legato. È un camboccione che. Luca, non devo pensare a Luca. Ok, non mancherò, non mancherò. Dice che passiamo con questo, questo è il 140, e mi aspetta. Aiuta, porca gnocca. Franco, Franco, rispondimi. Sì, un attimino che sono sulla versetta con il quadrino. Ma pure quello che si è andato a farsi il vaccino col braccio di gomma, finto, che ha comprato su internet, era di sorso. Davvero pure. Ma non lo ritengo. Si è andato a farsi il vaccino. Scusate che ho perso il filo della ragione, che stavo rispondendo a mio figlio. Che domanda gli hai fatto? Perché era un vax per il grip pass, no? Col braccio finto. L'infermiera, la dottoressa se ne è accorta, l'hanno denunciato. Ah, sì, l'ho sentito anche io, ma lui non si è scomposto più di tanto, poi vabbè, è stato denunciato, però lui praticamente gli ha fatto un sorrisino alla tipa come per dire, non me ne voto, invece gli altri un vai. Beh, chi sia, questo non lo so, l'ho sentito al telegiornale. Un braccio di gomma. Un braccio di gomma, un braccio di gomma. La prova del senso. Dove che letto? Su Facebook. Un architetto di Biella, ecco. Mia moglie mi ha suggerito. Di Biella. Un braccio di gomma, di silicone, insomma. Cappa, dove eri qua allora? No, sto scherzando. Ti volevo dire che era amico di quello del cinghiale. Il sorso. No, ma voglio dire, un po' di comida. Però prendo per il culo a tutto l'ambaradan sanitario praticamente, perché lui è il primo che dovrebbe essere vaccinato. E invece no. Il cinghiale prima è entrato in frizzo, ma dopo è uscito, andato a farsi il vaccino. Sono gli altri che non hanno capito. Allora. Però dai, è stata una genialata, dai. Sì, una genialata poco furba. Cioè da un dottore a farsi fare il vaccino con il braccio in gomma. Aio, quando mai? Quando mai, cioè. La dottoressa si è sentita offesa, giustamente. Scusate un attimo, cioè. Sì, si è sentita offesa, sì. Io credo che se era un buon rapporto, magari l'avrebbe detto, guarda, non me ne voglio fare, fare per il vite del farmaco, però è sempre una cosa brutta, perché effettivamente è stato un per il culo la sanità. E poi tu in primis devi essere vaccinato, perché sei in un ambiente dove circola il virus, quindi poi vabbè, c'è chi la pensa così, c'è chi non ci crede ancora a tutto ciò, no? Quindi ogni pensiero è libero. Poi sì, c'è gente che preferisce perdere il lavoro di non lavorare, che, però con il vaccino non lo vogliono fare. C'è gente che il vaccino effettivamente non gliene frega niente, perché non ci crede ancora a queste cose, perché magari non è Allora, io sono scettico in alcune cose, per carità, dei vaccini li abbiamo sempre fatti e a me ciò che mi dava fastidio, però sinceramente la cosa che ti hanno imposto di farlo obbligatoriamente, nonostante tutto dicono non è obbligatorio, invece è obbligatorio perché dal momento che io non mi faccio il vaccino sono privo di fare tantissime cose, quindi automaticamente se me lo stai imponendo, e questa è una cosa brutta perché stai prendendo per il culo la gente. Devi dire che in maniera semplice e definitiva c'è la fase vaccino perché c'è questa maglietta qua, può basta, non deve stare per la vita. Questo abbassa un po' il microfono, sì. Certo, abbassa un po' il microfono, forse era troppo. È così, va meglio? Io ti sento un po' troppo compresso. Non lo so. Sì, tutto il corpo è diventato compresso la radio. No, allora non è troppo, aspetta. In disaccordo, perché il microfono ce l'ho uno, No, probabilmente come stai dicendo tu, perché tutto in un colpo si è rovinato la radio. Era in disaccordo, anche perché non fai qualche passaggio un pochino più lunghetto di quello che solitamente faccio, adesso è salito oltre 500, figurati, quindi. Vabbè, perché qua, così ormai non evitiamo, tanto queste per lunghi collegamenti, quando ho potuto giocare. Chiaro. Ebbene, allora, io adesso tra un po' mi preparo, mi faccio bello e me ne vado in Brasile a mangiare. Quando devi andare, così? E all'8:30, mi sta arrivando un amico, rimane a casa, ci facciamo l'aperitivo e poi niente, andiamo a ubriacarci. Eccomi qua, dai, vediamo un pochino così almeno questo non è stabile. Sì, questo è molto migliore. Ma vedi che questo è molto, ma molto più bello. Questo per me è scontato, non metto in dubbio, quello l'altro è un baracchino, questo non lo reputo un baracchino, lo reputo una radio. Anche se il segnale è più basso, qua manderà anche spurie, non lo so. Credo di no, perché non mi hanno avvisato, non mi hanno detto niente comunque. Adesso ne parlo a casa, vediamo cosa ne dico. Ecco, questo è, comunque questo è molto più bello, ma però è più basso dell'altro, lo so. Il segnale sì, ma la radio no, quindi la radio le fa 10-0 questo. Sì, è vero. Sai cos'è in Piemonte il baracchino? E cos'è? Il teganino che ti porti a mangiare. Ah, il baracchino lo chiamano. Il pigiazzino. No, noi lo chiamiamo così. E loro lo chiamano baracchino, guardi. Io ho uno dei miei cognati lì, no? E mio cognato è il più grande. E un giorno mi ha visto andando a lavorare, dice il baracchino non sta portando, ha giurato il baracchino. Cos'è il baracchino? Allora non lo conoscevo neanche il baracchino io. Il baracchino, sono il gattino. Ah, ma invece mi dà la vabbè, ognuno ha il suo linguaggio. Questo baracchino. Questo è un bigiattino. Sì, ognuno pensa un po' come l'uomo, ecco. Signori, è giunta per me l'ora di andare a mettere un po' di fase, il rossetto, la parrucca. Vai, dopo andare a prepararmi. Ciao ragazzi, mi ha fatto piacere, tante cosce calde a tutti stanotte e ci sentiamo domani. Ciao. Ciao Luigi. Dimmi quale via sei stanotte. Non te lo dico perché io agli amici sconti non è facile. Ah, così, va bene, allora, avanti Tino. Io che provo a uscire stanotte, che vabbè. Niente sì, non fa sconti. Non fa sconti. È una passatissa quella, vabbè. Ciao Jay, buona serata, dai, divertiti e mangia poco, non diventare come me. Perché grazie Ceti. Qualche chilo lo sono anche io. Sì, vabbè, va, ma ti dico tutta salute. No, per il momento non mi posso lamentare. Invece per bacchini, perfetti. E niente, dai. Va bene signori, di nuovo buona serata a tutti, come dico sempre io, tante cosce calde. Ciao! Ciao Eugenio! Ciao, 70, oh, 70 pesavo a 25 anni, 30 anni. Qualche cliente più da cera, aggiungi a 30. Capo, ciao, ciao Eugenio. Sempre ciao. E vabbè, tu sei anche molto più alto, eh? Sì, ma sei 2 metri. Da 2 metri. E io sono 1,65. Ciao ragazzi che mi stanno chiamando, ciao. Ciao, fai. Ehi, ciao, Eugenio. 1,65, 1,80. Oh, Tino. Ma hai chiamato un messaggio su WhatsApp, vediamo una risposta, ma sicuramente questa non ci arriva, boh, ho lo step che non riesco a impostare, io sto per ascoltarmi, non per altro. Mi è arrivato adesso, riesci a vedere, lo ascolto perché volevo attaccare l'orecchio, il traduttore non fa più la ricezione, forse perché è sporca la cellula che c'è all'interno, boh. Lo avevo sistemato io, per quanto riguarda il display era a posto. Sì. È per modo di verificare perché compriamo un vetro, ma io sto parlando del Samsung G5, perché devo cambiare il vetrino e però vorrei aprirlo per pulire questa cosa qua, se no fa. Ma che lo ascolto, Ma strano comunque questo non ci arrivi, a tutto. Vabbè. Andavi. Comunque l'ho messo a 25, ma non è 25 lo step. Vabbè. 12,5. Ehi, scusa, 12,5. 12,5 fa passo a 12,5. Ma quando io vado per arrivare lì non me lo dà il mezzo, capito? Non so perché. Io non l'ho impostato, guarda. Adesso me l'ho imposto, ora che mi hai messo la pulce in orecchio, Fammi sapere allora, perché lui io vado, so, me lo dà, però mi va. Ecco, poi ci siamo, Luca, lo vuoi memorizzare una volta che lo scrivi? Lo so. Boh, niente, fra, no, nulla. Mi fa arrivare a 875, non mi dà mezzo canale. Qual è l'ultima cifra? Non ti dà il numero giusto? Il 5, il mezzo canale c'è, però quella lì no, lì non mi fa arrivare. Capito? Ti dovrebbe dare tutto, ti dovrebbe dare. Mi fa arrivare. Aspetta. 900. 8, 8, 7 e poi il 5. Ma sei U? No, V. È V. Cosa dovresti fare? Quella il mezzo canale, no, me lo fa arrivare, ma lì no. Capito, fra. C'è comunque, lo step è a 12,5. Io ce l'ho 2,5K. Aspetta. 2,5K. Allora aspetta. Aspetta un attimino. C'è scritto qua. 2,0K. No, io ho fatto, anche io ce l'avevo come quello di Franco, adesso l'ho portato a 12,5. Va. Lo devo impostare, sì, ma dovrebbe andare. Non va, sì, non va. Sì. No, me la mangia quella frequenza che devo impostare, a vedere. Cosa fa? Quella frequenza devo impostare. Aspetta che ti mando una fotografia, dai. Ehi, va bene, dai. No, allora, se lo metto come stai dicendo tu non va, fra. Io li sento, però ci manca un altro canale. Mi va, senti. No, io l'ho fatto e fa, Aspetta che quando c'è da Franco un attimino. Allora, Franco. Sì, l'ho fatto io, lui. Già va. Come devo fare? Se mi dà una mano, perché non ci ho capito una mazza? Allora, lo devo portare. Lo step è a 12,5, giusto? Cioè, sono impedito, brutto, cavolo. Via. Sì, te l'ho mandata. Però dopo sentire una cosa, aspetta, io metto l'antenna e vediamo se riesco a fare una cosa. Franco, ma tu all'ostezza quanto ce l'hai? Allora, io sì, quella ci sono su quella frequenza, Tino, e non c'è nessuno. Sì, ma l'ostezza tu quanto ce l'hai fra? Allora, io ce l'avevo, l'ho modificato adesso, a 12.5, e prima ce l'avevo 2.5K. E beh, fra, ci sei riuscito? Sì, non c'è nessuno che sto parlando. Oh, vabbè, la frequenza l'ascolto, non c'è a perdere. Allora, ascolta, a me mi fa arrivare a quella frequenza lì, però 8.875. Sì, io non lo faccio, non lo faccio riuscito. Ma allora è 8, aspetta, 8, 7, 5, 5, giusto? Mandami qualche foto, magari mi dici come devo impostarlo, non lo so. Io li sento parlare, cioè si sente che stanno parlando. Ti ho mandato un messaggio lui. È come 441081, no, 446081, io 08, risento lo stesso, anche non sentono, cioè il buffer, intanto sono massacrato, anche quelli del qualche si chiama, di Bricoman. Ma adesso Tino ci stanno parlando? No. Perché ci ho inserito sia nel portatile sia nell'altro. Ed è zitto.